tutti in un gran galà. Tutti in attesa della bomba. L'esplosione è l'ospite d'onore, ma non sanno che gli sto contando le ore. Qui tutti in un gran galà. Tutti in attesa della bomba. L'esplosione cancella il disonore. Siamo uguali qui, se muore l'oppressore. Cristo abituato a troppe sconfitte, ne è dipendente, parla con Nazinger di guerre sante. Peccati e penitenze organizzano un cazzo di nuovo Evo imperante. Nobel parla con Kalashnikov della foglia di Gorbachev. Di Deep Blue che gioca a scacchi con Kasparov, ma non del suo esilio. Ehi, istituiscono un premio per chi fa più guerra a base di pallottole. AK-47, Silvio scende in campo ancora una volta. È un miracolo italiano, un nano che ci mette tutti giù a 90. Il capo della polizia dice che la protesta si è spenta, ma lo cagano in pochi perché la rivolta è un sacro tabù. A questa cazzo di festa che ogni VIP aspetta, perché siamo tutti in un gran galà. Tutti in attesa della bomba. L'esplosione è l'ospite d'onore, ma non sanno che gli sto contando le ore. Qui tutti in un gran galà. Qui tutti in attesa della bomba. Qui l'onore non regge l'esplosione e non sa che sono un benefattore. Tutti in un gran galà. Tutti in attesa della bomba. L'esplosione è l'ospite d'onore, ma non sanno che sono un benefattore. Tutti in un gran galà. Qui tutti in attesa della bomba. L'esplosione cancella il disonore. Siamo uguali qui, se muore l'oppressore. Mio padre pretende affetto, ma inciampo nella sua autorità. La sua vestaglia, il costume perfetto per questo suo ultimo gran galà. Mia madre si guarda allo specchio, accetta la bomba con serenità. Il martirio è il suo mestiere, la sua vanità. Ma ora accetta la morte soltanto a metà. Ha una parte ancora viva che le fa pietà. Ecco cosa è rimasto di questo gran galà. La luna illumina soltanto a metà. Cocci e detriti, solo cadaveri qui, ma niente feriti. Sono l'unico reduce tra tutti caduti. Impiegato non ha etica, sconfitto dalla pratica. È stanco di una vita statica. Ha voluto uguaglianza perché solo la bomba è davvero democratica. Tutti in un gran galà. Tutti in attesa della bomba. L'esplosione è l'ospite d'onore, ma non sanno che gli sto contando le ore. Qui tutti in un gran galà. Qui tutti in attesa della bomba. Qui l'onore non regge l'esplosione e non sa che sono un benefattore. Tutti in un gran galà. Tutti in attesa della bomba. L'esplosione è l'ospite d'onore, ma non sanno che sono un benefattore. Tutti in un gran galà. Qui tutti in attesa della bomba. L'esplosione cancella il disonore. Siamo uguali qui, se muore l'oppressore.